Col potere satanico che mi è proprio, scrivo col fuoco, brucio hip hop classico in un cacofonico rogo. Racconto che Rico, in cerca di campioni, entra in un negozio Velvet chiedendo vinili di effetti di suoni. Premetto, il suddetto Emporio non vende dischi funky, preferisce punk, metal, pop, anni 60-70. Elvis Presley, David Bowie, la sua distanza è tremenda. Da negozi avulsi dalla vendita di musica, suonate chitarra, basso e voce melodica. Continua la filippica, il proprietario Mauro ascolta Rico la sua richiesta insolita. Valuta, e in cambio di valuta, eroganza, simpatica, qui rientra pulso. Un disco tedesco poco costoso, di un gruppo poco famoso. Stein, Zay, Nato, Age, New Age, Post, Noise, cilindrico. Come sound ricordano gli stop, ma è tutto più spirituale e meno empirico. Empirico col semplice ascolto di una traccia. Trovi i suoni che state ascoltando e li sequenza. Li equalizza con la parte sinistra in vista di una giunta di batteria. Viene cotta da un rap, un suo omicidio verso la doppia H. Per questo svela la gabola e compone il classico chitar ritmo. Cazza rullante, doppia cazza, cazza rullante. Chiaramente intenzionato a pigliare per il culo che queste cose le fa seriamente. Dopodiché mi telefona e mi avverte di aver fatto una base con queste altre caratteristiche. Insiste sul voler offendere le piste. I breaker, le basi classiche, i fricchettoni rapper convinti, le persone fintamente anti-ciniche. Gli risponde lo supporto dopo numerose gag telefoniche, schiaccio un tasto, salgo in macchina e mi direziono verso il Fisher Price Studio. Tra parentesi crasto perché sennò non faceva la rima. Presto, devo abbandonare Pancarana e direzionarmi verso Ponte Curone. Prorompente appiccatore di incendi dolosi. Ho scordato le galosce in garage, un frigorifero che screccia sui piatti, un mausoleo garantito, un cadavere subalterno. Giunto al Fisher Fry Studio, suona il campanello, entro, trovo il solito macello, bovino, suino, equino. Il macellaio saluta cortese e mi offre fese di tacchino. Rico attende a capochino sul computer, mi vede, sorride satanico e poi mi sfozza la base. La barra sulla schermata del cakewalk procede, esclamo santa polenta per quanti tracciati riesco a contare. Si sente suonare al telefono, Rico risponde qualcuno ha sbagliato numero. Per questo mi passa la classica vecchietta vittima della sua stessa incuria telefonica, imponendomi di fingermi Gianni, la persona richiesta dalla nonna stupida, per non dire arteriosclerotica. Si scopre la gabola, che risate, pensate, in quel momento è epifania. Rico c'ha l'illuminazione, vedo i suoi occhi brillare, lo vedo rovistare fra i dischi, lo sento vaneggiare sullo stuprare le batterie più famose prese dai break beat delle vecchie scuole. Attacchi alle più solide tracce da break, nessuno direbbe, ma lui sì, ma noi sì. Per questo i rigori satanici si pervadano, il diavolo si sa, odia rap ed ama il rock, saccheggio, offesa al nostro antenato ideologico l'hip hop. Ma non ti sei accorto, non concepisci l'aborto con quale io sto gomito a gomito. Frattanto Rico continua a campionare, a rallentare beat con lo scopo di ottenere meno skills, meno fotta, sputtanare, sputtanarci. Voglio vedere la gente che sbocca, trattiamo male la doppia H. Rico mette la base su cassetta, io torno a casa e mi appresto a scrivere nella mia cameretta. Classico ritornello hip hop, con le ripetizioni di frasi appartenenti allo stile formulare H gergo e la presenza qua e là di sussulti e interazioni, naturalmente ripetuto 4 volte. Conseguentemente sono arrivato a casa e ci ho scritto sopra questo testo che termina con questa frase. Paradossale, né vero?